Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, partiremo in apertura con un doppio tema, in realtà l'oggetto è identico, mi riferisco al libero scambio, agli accordi di libero scambio commerciale. Perché? Perché da un lato si è raggiunto, come abbiamo anticipato ieri, l'accordo tra Unione Europea e Giappone per eliminare il 99% dei dazi e barriere doganali tra, diciamo, non i due paesi ma le due aree economiche, quindi Unione Europea da una parte e Giappone dall'altra. Sul fronte agroalimentare vi è anche il riconoscimento di 205 denominazioni di origine, tema che interessa molto la nostra industria alimentare, visto i numeri che fa con l'export, tra cui 130 vini, abolizione di tariffe su formaggi, pasta, prodotti da forno, accesso delle aziende europee agli appalti pubblici giapponesi in un interscambio tra Unione Europea e Giappone che vale circa 124 miliardi di euro l'interscambio, ma le stime di Bruxelles portano a immaginare un aumento di circa un 30% dell'interscambio complessivo, con un picco vero e proprio nel settore agroalimentare più 180%, non solo quello italiano chiaramente, ma anche quello italiano. Lo dico perché ne parleremo in apertura, ma dall'altro lato invece ci sono nuove tensioni per quello che riguarda il CETA, ossia il trattato di libero scambio tra Unione Europea e Canada. Ne abbiamo parlato moltissime volte, dovrebbe garantire la crescita del PIL europeo di 12 miliardi l'anno e abbattere i costi a carico delle imprese europee di mezzo miliardo. Abbiamo anche spiegato in tutti i modi possibili che nel CETA non è previsto alcun accordo di carattere diverso su cose che sono proibite in Italia. Tipicamente abbiamo letto la carne con gli ormoni, le cose con GM. No, l'accordo permetterà alle imprese dell'Unione Europea di partecipare alle parti pubblici in Canada a tutti i livelli, quindi province, governo e quant'altro. Perché ne parliamo? Perché mentre appunto si va a ratificare l'accordo con il Giappone, si segnalano nuove tensioni. Il 25 luglio prossimo si vota in Senato la ratifica dell'accordo CETA con il Canada. Ieri vi sono state proteste davanti a Montecitorio, la manifestazione organizzata da Coldiretti, Legambiente, Slow Food, Federconsumatori e altre associazioni. Ne parleremo in apertura. Invece, al di là della borsa, di cui adesso darò un aggiornamento, per quello che riguarda gli altri due temi della puntata, uno riguarderà il futuro dell'auto. Perché? Perché ieri abbiamo avuto un annuncio, in realtà è arrivato praticamente a programma che stava terminando, l'annuncio che la Volvo dal 2019 per ogni nuovo modello che verrà lanciato monterà anche un motore elettrico sotto il cofano, e segnando di fatto la fine dell'offerta di auto con motore soltanto a combustione interna. Questo vuol dire che le auto normali con combustione interna usciranno progressivamente dalla produzione della Volvo e tutte avranno alla fine un motore endotermico con diverse opzioni. Adesso non voglio entrare nella parte tecnica. La cosa interessante è che anche la Volvo non ha una quota di mercato, diciamo, enorme, però sta dando una direzione. Oggi dalla Francia è arrivata la notizia che il governo francese vuole mettere fine alle vendite di auto a benzina e diesel entro il 2040. Ora, è chiaro che dal 2019 al 2040 ne passa di tempo, ma è abbastanza significativa la coincidenza tra la scelta della Volvo e le indicazioni del governo francese. Quindi parleremo anche del mondo delle quattro ruote e poi chiuderemo sul vertice informale dei ministri europei degli interni a Tallinn in Estonia, perché lì sappiamo che c'è un tema anche economico. Tra l'altro la spesa dell'Italia per l'emergenza migranti è stimata quest'anno tra i 4,3 e i 4,7 miliardi di euro, il 68% viene speso per l'accoglienza, il 18% per il soccorso in mare e il 13% per sanità e istruzione. Ripeto, non ho problemi a ridefinire bruscolini, 35 milioni di euro che Roma riceverà, che si aggiungono ai 91 milioni già stanziati, e poi 46 milioni di euro che andranno alla Libia per la Guardia Costiera, visto che, come abbiamo spiegato in tutti i modi anche ieri, la Turchia, per un accordo per bloccare i profughi siriani, ha ottenuto 3 miliardi più altri 3, cioè 6 miliardi. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Partiamo dalla borsa, come dicevo, più 0,40% Milano, meno 0,60% Parigi, meno 0,70% Francoforte, meno 0,40% Londra, euro su dollaro 1,14%, bene la Brembo oggi più 4%, il Banco BPM più 3,5%, Unicredit più 2,5%, Fineco più 1,70%, Generali più 1,5% come banca, Generali, Poste più 1,40%, Iux più 1,30%, Exor più 1,20%. Come banca Mediolanum. Invece, tra chi perde oggi, segnalo soprattutto A2A meno 1,80, ricordati meno 1,5 come Prismian, l'1,40 lo perde Mediaset, l'1,30 Campari, lo 0,90% il calo di Terna. A proposito di migranti, oggi vale la pena ricordare come nel rapporto diffuso da Oxfam, Medu, Medici per i Diritti Umani e Borderline Sicilia, vengono segnalate violenze, detenzioni illegali, stupri e torture da parte dei trafficanti di migranti in Libia. Lo dico anche perché appunto in questi giorni abbiamo anche ascoltato chi diceva beh, ma con Gheddafi però li teneva... Non è che in questo momento il modo in cui vengono trattati i migranti in Libia sia molto diverso da quello, e comunque è palese che i flussi sono aumentati. Comunque, secondo il rapporto, centinaia di persone arrivate in Sicilia negli ultimi 12 mesi raccontano di essere state picchiate, abusate, vendute e arrestate illegalmente. L'84% delle persone intervistate ha dichiarato di aver subito trattamenti inumani, tra cui violenze brutali e torture. Il 74% ha dichiarato di aver assistito all'omicidio e alla tortura di un compagno di viaggio, l'80% di aver subito la privazione di acqua e cibo. Avramopoulos, il commissario europeo, visto che c'è il vertice a Tallinn, ha detto l'obiettivo di Triton è, come attualmente è chiaro, però occorre più lavoro all'interno dell'Unione Europea, ma anche con i nostri vicini nordafricani, per condividere il peso ed assicurare che l'Italia non sia lasciata sola. I ministri comunque dell'interno dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo sulla necessità di accelerare il lavoro collettivo per fare che cosa? Rafforzare il sostegno all'Italia e alla Libia e ai paesi terzi, e rivedere e coordinare meglio le operazioni di search and rescue, che vuol dire in sostanza ricerca e salvataggio, e anche l'accordo con un codice per l'ONG. Tra l'altro c'è un ampio consenso, ha detto il ministro Minniti, sulla necessità di ampliare i finanziamenti, andando oltre i fondi già predisposti, tutti unanimi come posizione su Libia e sul codice delle ONG. E poi Minniti ha detto attenzione riguardo all'apertura di altri porti ai paesi dell'Unione Europea ai migranti, ci sono posizioni contrastanti, l'Italia al suo punto di vista discuteremo legittimamente con la necessaria fermezza. E su questo tema è intervenuto anche il ministro Padoan, che ha detto nel dibattito con l'Unione Europea non credo si porrà un limite di risorse economiche per la gestione del problema dei migranti. Per quello che riguarda invece il tema banche, Padoan ha detto che non vede altri focolai di crisi come quelli che si sono risolti in questi giorni, di riferimento alla Monte dei Paschi ma anche alle Venete. E poi a proposito delle Venete, Giovanni Sanga del PD ha proposto un emendamento che prevede il rimborso delle obbligazioni acquistate entro il 1 febbraio 2016, quindi ampliare la platea dei risparmiatori di Veneto Banca e Popolare di Vicenza che potranno accedere al rimborso delle obbligazioni subordinate. Sappiamo invece che il rimborso non arriva fino al 2016 con un'altra logica, perché va spiegata, cioè si è detto non vogliamo premiare chi ha comprato le obbligazioni di Veneto Banca e Popolare di Vicenza per specularci sopra. Vogliamo dare una garanzia a chi le ha comprate, tra virgolette, in buona fede, ma non quando ormai il disastro delle due banche era conclamato e era perfettamente conscio chi le ha comprate allora del rischio che andava a correre. Vogliamo tutelare chi le ha comprate in tempi in cui non c'era il sospetto di quello che covasse sotto la cenere. Per quello che riguarda il mondo bancario, segnalo oggi a maggio dell'Assemblea di Confindustria Radio TV anche la dichiarazione del Presidente di Confindustria Boccia, l'ho fatta a microfono la nostra Teresa Trillò. Insomma, abbiamo evitato l'effetto panico, l'allarme, diciamo, l'allarme, la parte peggiore della vicenda sembra alle nostre spalle. Sicuramente sì, potremmo avere qualche elemento forse ancora marginale, ma la sostanza è risolta. Voglio ricordare che altri paesi, prima dell'attivazione delle nuove regole, hanno, come dire, contribuito in maniera sostanziale per svariate centinaia di miliardi per salvare il loro sistema bancario. Noi siamo arrivati tardi nella fase finale, abbiamo evitato un effetto panico nel paese, governato un'emergenza, e adesso dobbiamo cavalcare la ripartenza che c'è nel mondo e che timidamente arriva anche in Italia. E poi sul fronte delle trattative con i sindacati, ha detto Boccia, si ricomincia a lavorare, c'è la volontà di capire quali sono i punti di convergenza e ci auguriamo appunto che si vada avanti con buon senso e pragmatismo. Io sono uno che considera, come dire, il fatto che non esistono né eventi positivi né negativi, ma condizioni da cui ripartire. La leggiamo in questi termini, si ricomincia a lavorare, c'è la volontà di capire quali sono i punti di convergenza e quali no, e se i punti di divergenza sono rilevanti o marginali, e su questo costruiamo una stagione anche di confronto, di buonsenso e di pragmatismo. Mi sembra che questo è il primo messaggio dell'altro giorno, vedremo adesso che capacità abbiamo di capire i punti di convergenza, che non devono essere reciprocamente mediazioni in bassa, ma una visione di politica economica del Paese che riponga la questione industriale quale questione prioritaria per il Paese. Presidente, ma è fiducioso su un accordo entro l'autunno, su questo patto per la fabbrica, anche per far ripartire, appunto per attaccare la ripartenza che c'è? Direi di sì. Lavoriamo affinché, diciamo, la questione temporale sia una questione di sensibilità, cioè in quanto tempo facciamo le cose, lei ha perfettamente ragione, non possiamo, come dire, discutere a vita, o litigheremo oppure qualcosa faremo, vediamo, io propendo per la seconda, cioè fare qualcosa. Ancora con un paio di notizie prima del tema di approfondimento. Allora, intanto l'Istat che oggi ci dà il dato sul 2016 sulla spesa media mensile delle famiglie è stata pari a 2.524 euro, spesa media mensile, chiaro che è una media quanto mai di trilussa anche questa, in rialzo però dell'1%, questo è più importante rispetto al 2015. C'è quindi una lenta, ma dice l'Istat, consolidata, aumento dei consumi che si sta consolidando, anche se appunto il ritmo è moderato e il livello comunque rimane al di sotto di quello registrato nel 2011. Tra l'altro l'Istat fa notare che cambia anche, tra virgolette, la dieta degli italiani. Parte dalla spesa media delle famiglie per la parte alimentare, sono 448 euro al mese nel 2016. C'è una crescente attenzione a una più corretta alimentazione, la quota destinata alle carni, pur restando la componente più importante, è tornata a diminuire, meno 4,8%, aumenta la spesa per la frutta, più 3%, i rialzi maggiori riguardano pesce e prodotti ittici, più 9,5%, e sono tornati ai livelli pre-crisi, questo è interessante a mio avviso, le spese sia per la ristorazione che per i servizi ricettivi, più 4,8%. L'altro tema riguarda quanto segnalano i notai italiani, il rapporto dati statistici notarili nel mercato immobiliare. Al nord, dove il mercato immobiliare italiano è più dinamico, si effettuano il 56% del totale delle compravendite italiane, segue il centro con il 18%, e poi il sud delle isole ne hanno il 25,8%. La regione dove si scambiano più immobili è la Lombardia, con il 20% del totale. Ma considerando la densità delle regioni, quindi densità per abitante, ogni 100.000 abitanti. La classifica è guidata invece dalla Val d'Aosta, poi seguono Liguria, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. E poi Cantone, inteso come Raffaele Cantone, presidente dell'autorità anticorruzione, presentando la relazione sull'attività dell'ANAC nel 2016, Cantone ha fatto notare che l'ANAC ha redatto 2600 esposti per presunte irregolarità, ma ha anche detto che l'ANAC non è un organismo che può occuparsi di ogni forma di illegalità e non bisogna assecondare l'idea che gli appalti si possono fare solo con il bollino dell'ANAC. Non è un organismo che può occuparsi di ogni forma di illegalità e non può quindi pronunciarsi su tutte le questioni che ci vengono quotidianamente sottoposte, soprattutto da comuni cittadini. In modo analogo ci si è mossi rispetto alle centinaia di quesiti, richieste di chiarimento, collaborazione che vengono formulate soprattutto sulla materia dei contratti pubblici, in particolar modo dalle amministrazioni, precisando in un apposito regolamento che le risposte saranno fornite solo se la questione posta è nuova e di rilevanza generale, con la chiara volontà di non assecondare l'idea che gli appalti si possano fare solo con il bollino dell'ANAC e al contrario rimarcando che l'autorità non è un consulente e non si può sostituire alle scelte discrezionali dell'amministrazione. Allora 349-238-6666 per sms e whatsapp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Ricordo che il programma è trasmesso anche in diretta video da Facebook e dal sito della radio. Primo tema, dicevo, due accordi, diciamo, dal Pacifico al Pacifico, perché da un lato abbiamo firmato come Unione Europea l'accordo con il Giappone e di questo vorrei parlare con Stefano Carrer in collegamento con noi da Tokyo. Stefano Carrer del Sole 24 Ore, chiaramente in collegamento da Tokyo. Buonasera Stefano, buonanotte, ma a questo punto notte inoltrata. Buonanotte Stefano. Pronto? Buon pomeriggio a voi. Ecco, abbiamo un po' di salto, diciamo, temporale. Grazie anche invece al presidente di Federalimentare, che è la Federazione Italiana dell'Industria Alimentare, Luigi Scodamaglia. Buonasera presidente. Buonasera a voi, buonasera. Dunque, l'importanza dell'accordo con il Giappone, che resta comunque a casa mia, poi con la Cina c'è sempre la classifica, seconda, terza economia al mondo, comunque siamo lì, ha l'obiettivo, Stefano, se ho ben capito, di portare all'eliminazione del 99% dei dazi e barriere doganali. Quali settori saranno più investiti in senso positivo? Sicuramente il settore agroalimentare, nel senso che il Giappone ha fatto dei sacrifici dal suo punto di vista anche superiori a quelli di cui si era mostrato disposto in passato e quindi è stato calcolato che il vantaggio complessivo a regime per le aziende europee sarà di un risparmio di 1 miliardo di euro sui dazi e in particolare sui prodotti agricoli. Quindi le stime dell'Unione Europea sono che questo Free Trade Agreement farà aumentare di 1/3 le esportazioni europee verso il Giappone, ma addirittura potrebbe quasi triplicare le esportazioni agroalimentari europee. Però vorrei dire subito che in realtà al di là dell'aspetto economico c'è un aspetto politico molto importante, forse ancora più importante, ed è stata proprio una forte volontà politica sia da parte dell'Unione Europea sia da parte del Giappone di arrivare alla vigilia del G20 lanciando un messaggio al mondo intero contro il protezionismo per il rilancio di liberalizzazioni commerciali attraverso accordi di libero scambio che possono fare da modello per, certo, per tutti, insomma. No, hai ragione, perché poi noi qua ci occupiamo di economia principalmente, però non sfugge a nessuno la valenza politica, visto l'atteggiamento, devo dire, per ora più a parole che nei fatti di Trump, il rischio di un neoprotezionismo, il messaggio che arriva tra due delle principali aree economiche del pianeta, Unione Europea e Giappone, è quello di andare a ridurre invece dazi e barriere doganali. Scusami Stefano, ma il Giappone, detto in maniera un po' brutale, che cosa ci guadagna? Ah, ci guadagna che, perché il Giappone era stato la parte che aveva chiesto all'Unione Europea di iniziare il Free Trade Agreement, perché erano andati nel panico perché l'Unione Europea stava concludendo il Free Trade Agreement con la Corea del Sud e oggi i prodotti giapponesi, soprattutto nell'auto, nella componentistica auto e nei prodotti elettronici, sono in svantaggio sul mercato europeo rispetto a quelli coreani, perché c'è già un free trade agreement da 5 anni e passa con l'Unione Europea. Quindi loro avevano chiesto all'Unione Europea di aprire i negoziati proprio per questo. Per il Giappone in fondo si tratta di politica industriale, cioè siccome è un paese che vive di commercio, che deve vivere di commercio, ha fatto la scelta di penalizzare la sua agricoltura, che però comunque comporterà degli oneri perché sosterranno, cioè dovranno spendere spesa pubblica un po' di più per sostenere i settori agricoli che saranno penalizzati dopo questo accordo, per poter cercare di garantirsi un mercato europeo, un mercato da 500 milioni di persone e oltre, cercare di garantirsi un market access sicuro, in particolare per l'auto, perché i dazi sull'auto giapponese verranno eliminati in 7 anni. Loro volevano che fossero eliminati da subito, però diciamo chiaramente l'Unione Europea ha fatto resistenza perché l'industria dell'auto europea non era d'accordo con questo free trade agreement fin dall'inizio, ma comunque ecco, questo è un altro diciamo aspetto di portata storica. L'auto made in Japan, che era uno spauracchio negli anni 80 da portare rigide quote all'importazione, adesso insomma ecco, dacci zero sull'auto made in Japan. È vero che la situazione è cambiata perché il 70% circa delle auto giapponesi vendute in Europa ormai non sono più prodotte in Giappone, ma sono prodotte soprattutto in Gran Bretagna oppure in altri stati come la Thailandia, il Messico, così via, insomma. Quindi il Giappone si assume anche il rischio della Brexit, perché i vantaggi, molti dei vantaggi che spera da questo accordo con l'Unione Europea potrebbero essere parzialmente vanificati se l'Unione Europea fosse molto rigida con l'Inghilterra, perché l'Inghilterra è il paese dove gli investimenti giapponesi diretti sono stati più ampi. Allora, vorrei sentire su questo intanto il Presidente Federalimentare, poi arriviamo al CETA e dopo saluterò anche Stefano Carré. Beh, questa per tutta l'industria agroalimentare europea e a maggior ragione per quella italiana, che da sola, voglio dire, vale 54.000 aziende, 135 miliardi, è il secondo settore produttivo per apporto al PIL dopo la meccanica, il settore alimentare, che vuol dire tutto, dicevo 335.000 addetti. Avete fatto un record di export anche l'anno scorso, 38 miliardi. L'export dal 2007 è cresciuto del 37% nell'industria agroalimentare italiana. Voi immagino che vediate più che altro vantaggi, visto che da quello che abbiamo visto sarà soprattutto l'industria agroalimentare europea ad avvantaggiarsi del venire meno dei dazi. Assolutamente sì, per la prima volta forse un accordo bilaterale non fa pagare all'agroalimentare il prezzo rispetto ad altri settori, ma anzi l'agroalimentare, come veniva ricordato, è quello che con un aumento delle esportazioni previste verso il Giappone di oltre il 180%, oltre 10 miliardi previsti di aumento di esportazione, l'agroalimentare sarà quello che avrà i benefici maggiori e ovviamente tra l'agroalimentare di tutta Europa quello che beneficerà di più, visto la richiesta di alta qualità che il mercato giapponese normalmente ha, e soprattutto il settore agroalimentare italiano. Quindi speriamo, anzi siamo certi, che i 700 milioni attuali circa di esportazione di food and beverage italiano verso il Giappone possano, grazie a questo accordo, aumentare, e soprattutto a vantaggio delle tante piccole e medie imprese, che sono quelle più ostacolate dall'esistenza di tante barriere, certo, non tarifarie. Sì, questo va detto, che quando, perché adesso parleremo anche del CETA e quindi l'accordo dell'Unione Europea con il Canada, quando elimini o riduci nel caso del Giappone il 99% di dazi e barriere doganali, in realtà il grosso vantaggio lo dai ai piccoli e medi, perché i grandi, Stefano Carrer, delle volte riescono, chiaramente avendo maggiori risorse economiche e disponibilità, a produrre in loco e quindi fatturano semplicemente producendo in loco, non hanno bisogno di esportare, Stefano. Sì, diciamo più che altro questo accordo spinge proprio spinge l'accesso al mercato per tutti, in particolare su appunto settori dove l'industria italiana a un vantaggio. In particolare, il Giappone ha accettato tutte le richieste sulle indicazioni geografiche tipiche, ecco, questo aspetto importante, e avanzate dall'Unione Europea, che più di 40 su 205 riguardano l'Italia. Quindi DOP, IGP e quant'altro. Gli italiani avranno la stessa tutela in Giappone che hanno nell'Unione Europea. Quindi non ci sarà il rischio dell'Italian sounding. Scusami una cosa, Stefano, per curiosità mia, noi abbiamo sempre saputo che i giapponesi hanno una grossissima passione per la moda italiana, il design italiano. Sul fronte cibo? Sul fronte cibo? Cibo, alimentazione. Sì, no, cibo, cioè Tokyo e il Giappone è piena di ristoranti italiani di diverso tipo, da quelli di altissima qualità a quelli un po', diciamo così, giapponesizzati. Il cibo, sicuramente il cibo italiano è di moda, e ha anche il vantaggio rispetto, diciamo così, alla cucina francese, che diciamo, mentre la cucina francese è più formale, quella italiana è anche più easy going, anche se appunto con la qualità non si transige, soprattutto in Giappone, e quindi veramente è probabilmente la più popolare cucina europea in Giappone. Allora, grazie anche a Stefano Carrera, anche per l'ora che ti abbiamo fatto fare. Presidente Scodamaglia, resti con noi perché poi vorrei commentare il CETA. Ho detto bene, o comunque l'accordo con il Giappone dovrebbe ridurre al massimo il rischio di Italian sounding? Noi sappiamo che esportiamo 35 miliardi, ma ce ne sono più del doppio di agroalimentare in giro per il mondo, che sembrano italiani ma sono prodotti in Canada piuttosto che negli Stati Uniti, in Messico, in altri paesi. Prego. Assolutamente così, come veniva ricordato, 205 indicazioni geografiche tutelate, oltre 40 italiane, ma quando si dice 40 italiane si dimentica di dire che queste 40 sono quelle proprio più rappresentative, dal parmigiano al prosciutto eccetera, quindi oltre il 90% di tutte le nostre indicazioni geografiche, quindi vittoria assolutamente a 360 gradi. Vediamo di capire invece qual è ancora la perplessità sull'accordo con il Canada, che, da come avevo capito io, garantisce un vantaggio forte per le imprese europee, quindi anche italiane, soprattutto nei settori agroalimentari. I timori di importare in Italia quote, diciamo, di in particolar modo si citava la carne o altri elementi, con per esempio la carne con gli estrogeni, l'abbiamo spiegato in tutti i modi, non sono parte di questo accordo. Però di nuovo abbiamo visto un po' di tensione, ne parliamo dopo il dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Dunque, l'accordo con il Canada, CETA, dovrà essere ratificato dall'Italia. Ci sono state proteste ieri, ma il 25 luglio prossimo si voterà in Senato la ratifica dell'accordo CETA con il Canada. Ieri, dicevo, proteste davanti al Montecitorio, col Direct, Legambiente, Slow Food, Federal Consumatori. Come si capisce già dalle sigle, la maggior parte, diciamo, dei dubbi su questo accordo si concentrano proprio sul settore alimentare. L'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Canada, infatti, che dovrebbe garantire una crescita del PIL europeo di 12 miliardi di euro l'anno e abbattere per circa mezzo miliardo di euro i costi a carico delle imprese europee. Prevede infatti, secondo gli obiettivi di Bruxelles, un incremento dell'interscambio del 23%, con un aumento delle esportazioni dell'Unione Europea verso il Canada del 24%, l'abbattimento dei dazi sul 99% delle linee tariffarie tra Unione Europea e Canada. Allora, l'accordo, un po' come quello col Giappone, permetterà alle imprese europee di partecipare per esempio agli appalti pubblici in Canada, a tutti i livelli di governo, anche nelle province, e potranno le imprese europee anche accedere ai mercati dei servizi e degli investimenti canadesi, per esempio servizi postali, telecomunicazioni, trasporto marittimo e quant'altro. Tra l'altro dovrebbe avvantaggiare le imprese europee anche nel settore dei servizi finanziari per operare in Canada. Il dubbio, dicevo, in chi lo contesta, è il rischio che noi importiamo dal Canada, soprattutto, devo dire, sulla parte dei prodotti alimentari, prodotti meno sicuri e quindi meno sicuri rispetto agli standard europei. Mi scrive adesso un ascoltatore: grano canadese al glifosato le dice nulla. Allora, Scodamaglia, a me sembrava di aver capito che ci fossero dei paletti molto forti in quello che vuol dire un accordo di libero scambio, cioè non che tu puoi vendere prodotti che qui non possono essere venduti, penso alla carne con gli estrogeni, ma semplicemente che abbassi le tariffe doganali o le elimini del tutto per prodotti che già vendi. Comunque, mi dica lei quanto è alto il rischio sulla parte alimentare. Il settore alimentare è quello, anche in questo caso, che si avvantaggia di più dalla chiusura dell'accordo, per cui portare su uno scontro ideologico e negare dei fatti che sono oggettivi francamente non si capisce. Lei parlava di grano duro, il grano duro canadese oggi entra, il grano duro canadese non ha oggi dazi, oggi dal Canada non si paga nessun dazio semplicemente perché il prezzo del grano canadese è superiore di quello italiano, quindi non ci sarà nessuna invasione rispetto all'esistente di grano canadese. Per la carne, lo ha già detto lei, né OGM né ormoni saranno mai consentiti, ma soprattutto negare che c'è un'azione finalmente di tutela delle nostre denominazioni d'origine. Oggi si usa tranquillamente il termine Parmesan, domani sarà assolutamente vietato. Per quanto riguarda altri prodotti, e il Canada è uno dei paesi che, insomma, dove l'Italian sounding, vuoi anche per l'immigrazione, è molto forte. Tutto quello è che... uno dei più forti dopo gli Stati Uniti. Lei pensi che oggi non è possibile esportare il prosciutto di Parma in Canada e chiamarlo prosciutto di Parma, lo deve chiamare original prosciutto, perché c'è un prosciutto canadese registrato prima. Con questo accordo finalmente il nostro prosciutto ha tutti i diritti di entrare, e anche i prodotti un po' meno tutelati, perché mentre il parmigiano reggiano, e c'è il divieto assoluto di usare il termine Parmesan, per il gorgonzola ad esempio è possibile che ci siano dei prodotti locali, ma anche in quel caso deve essere eliminata dall'etichetta ogni evocazione di italianità, nessuna bandiera. Per cui dire che questo è un cattivo accordo per l'alimentare italiano, che aumenterà le esportazioni attuali che sono circa 800 milioni mentre le importazioni del Canada sono appena 30, è negare l'evidenza. Poi si dice non si può fare di meglio, si può fare di meglio, certo che si può fare sempre di meglio, ma un ottimo precedente punto di partenza, magari arrivassimo così con gli Stati Uniti, magari. Mi scusi, mentre alcuni ascoltatori al 349-238-6666 mi dicono i pandori sono fatti con farina canadese, chiamata strutturale, la nostra non riuscirebbe a farli stare dritti. Non mi occupo di pandori, onestamente. No, nel senso che li mangio, ma non so come si fanno, si possono fare. Vedo che molti continuano a insistere sulle farine, sui cereali, sulla parte di cereali. A parte che io ricordo che noi già importiamo una marea di cereali da tutto il mondo, perché non basta la nostra produzione. Però, perché secondo lei c'è tutta questa tensione? Non, a me sembra di capire che tutti abbiano, o meno, chi vuole ragionare, riconosca il vantaggio per le nostre imprese quando vanno lì a esportare. Resta però una forte preoccupazione su quello che noi mangeremo, non quindi il beneficio per il nostro export, che insomma, a meno che uno non sia ideologico, è abbastanza palese, ma per quello che rischiamo di importare. Lei ha richiamato la questione della carne, ma vale per tutto. Nell'accordo con il CETA non è stato possibile, e noi saremmo stati assolutamente contrari se si fosse fatto, derogare a nessuno standard comunitario, cioè nell'accordo non si deroga a nessun requisito per le importazioni, cioè non viene modificato nessuno degli standard europei, non viene modificata la normativa, non vengono modificati i regolamenti, quindi non si può assolutamente, da un punto di vista daziale anche qua, dire che con l'accordo si riduce il dazio sul grano duro e quindi ne entrerà molto di più, è falso. Ma è falso perché il dazio sul grano duro canadese che entra in Italia non esiste da 10 anni, perché il prezzo è di 35 euro, mentre in Italia è molto più basso. Quindi è chiaro che si va incentivata in ogni modo la produzione nazionale, ma l'alternativa al CETA è l'assoluta neoprotezionismo. Quindi prendiamo questo accordo con tutte le parti buonissime che ha, proviamo di farne uno simile con gli Stati Uniti, andiamo poi a negoziare in altre parti del mondo ottenendo ancora di più, ma rinunciare... È così chiaro, perché protesta proprio una parte del mondo, diciamo, che dovrebbe avere un vantaggio, cioè il mondo delle produzioni alimentari, delle produzioni agricole, che lì non tanto sul mais, ma noi esporteremo in Canada anche ortofrutta, perché protestano proprio, diciamo, secondo lei, quelli che dovrebbero vedere anche i maggiori vantaggi? Non tutti, ma una parte di quel mondo. Certo. Probabilmente la forma di protesta viene confusa con la valorizzazione della produzione nazionale, cioè si dice preferisci la produzione nazionale, non importare prodotti. La valorizzazione della produzione nazionale è sacrosanta, e quindi noi stiamo con Coldiretti quando dice il prodotto nazionale va valorizzato, ma come diceva lei il prodotto è insufficiente. I grani importati dal Canada sono tra i migliori grani al mondo in termini di contenuto proteico, servono in Italia, quindi non ci può essere una condizione di autarchia. Bisogna pensare che aprire gli scambi Stabilendo e tenendo i nostri standard, imponendo al resto del mondo i nostri standard, non riducendo i nostri standard, è la soluzione di tutti gli accordi. Oddio, allora, io sono d'accordo che bisogna sfruttare le produzioni locali, sono meno d'accordo, lo dico con l'idea molto in voga in alcuni ambienti del chilometro zero, per due motivi. Uno, perché noi che siamo esportatori netti e ci facciamo quasi 40 miliardi di agroalimentare, se iniziamo a diffondere in giro per il mondo l'idea del chilometro zero, non vediamo più una mozzarella, un pezzo di grana, un prosciutto crudo, nulla. Cioè, attenzione, perché se scoprono negli Stati Uniti, in Canada e in altri mercati che bisogna mangiare a chilometro zero, noi non esportiamo più con grande gioia di tutti i nostri produttori dell'agroalimentare. Quindi diciamolo, ma non troppo alta voce, se mi passa la battuta, perché è bello. Due, questa cosa del chilometro zero, ma uno deve mangiare buono, sano, ben prodotto. Ho capito, nel massimo rispetto dell'ambiente, ma a me il chilometro zero fa ridere, perché se uno abita a, con massimo rispetto, Mestre, o abita nella zona industriale, qual è il suo chilometro zero? Ecco, poi cosa vuol dire? Che io, se abito a Pachino, mangio tutta la vita pomodori, se abito a Tropea, tutta la vita cipolle. Ragazzi, insomma, adesso il chilometro zero, usciamo dalle ideologie. Grazie comunque a Luigi Scodamaglia, presidente del Federale Alimentare, e attenzione, un paese che esporta in tutto il mondo non può giocarci troppo con la retorica del chilometro zero, ci facciamo del male da soli, andiamo sul traffico, nessuna offesa per chi abita a Mestre, sto solo dicendo che in alcune aree del paese il chilometro zero non si capisce bene che ti devi mangiare, e poi torniamo con la borsa. Focus Economia. Eccolo qua, è arrivato il messaggio di Giacomo, allevatore di Bergamo. Servo, sei un servo dell'industria alimentare. Ho solo detto che sul chilometro zero sento anche molta retorica gauche caviar, va bene? Perché proprio se lei fa l'allevatore a Bergamo e produce latte, immagino questo latte verrà conferito, non lo so, nell'industria casearia, dove. Ma lei, se lo, visto che produce latte, ma se qua iniziamo a dire che ognuno deve mangiare a chilometro zero, neanche all'interno del paese riusciamo più a vendere grana padano, parmigiano reggiano, capito? O viceversa, il caciocavallo, podolico e quant'altro. Cioè, mangiamo sano, questo sì, possibilmente senza appunto il sale rosa dell'Himalaya per fare i fighi, ma che noi ci mettiamo come esportatori a dire che il resto del mondo, che è bello e sano e giusto mangiare a chilometro zero, siamo come il marito cornuto che, diciamo, per ripicca si taglia la parte più sensibile. Mi sembra una follia. Noi dobbiamo dire che l'importante è mangiare cibo prodotto di qualità, con grande qualità, grande attenzione. Il cibo italiano è tra i migliori al mondo su questo, quindi lo esportiamo, comprate italiano, comprate made in Italy, vero made in Italy, no chilometro zero. Va bene, la borsa meno 1,50% ricordati, invece più 4,40% Brembo, il peggiore e migliori, quindi tra i titoli maggiore capitalizzazione. Leonora Micheli, buonasera. Buonasera. Brembo e poi Banco BPM più 3,5%. Sì, Brembo si è risvegliata perché del resto aveva perso terreno nelle ultime settimane, da maggio ai minimi diciamo toccati nei giorni scorsi a fine giugno, i titoli hanno lasciato sul parterre circa il 20% del proprio valore, dunque un risveglio era da mettere prima o poi in conto. Oggi sono scattati gli acquisti, hanno fatto più 4,4% e insieme alle banche così hanno sostenuto Piazza Affari, che è andato in netta controtendenza rispetto appunto a tutte le altre borse europee, abbastanza deboli. Sì, tutte deboli, perché devo dire che Milano oggi, senza grandi risultati, ma è la migliore, più 0,70% contro Parigi, che ha perso mezzo punto percentuale, Francoforte lo 0,60, Londra meno 0,40, il Dow Jones meno 0,37%. Dopo il GR24, Eleonora, parliamo appunto di Banco BPM, ma anche di Unicredit. Più 3% e riapriamo l'approfondimento sulla cassa di risparmio di Genova. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Di 18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo che il tema del chilometro zero è un tema che appassiona gli ascoltatori. Molti mi stanno scrivendo: non hai capito nulla di cos'è il chilometro zero. Allora, mi scuso con tutti gli abitanti di Mestre, ho solo detto che mi sembra un po' una follia che uno debba mangiare le cose più vicine. E mi scrive un ascoltatore: guardi che tutti i giovedì a Mestre in piazza fanno mercato con tutti i prodotti agricoli buoni della zona del Cavallino, quindi a pochi chilometri, sono d'accordissimo, conosco bene la zona, era un esempio. Altri mi dicono: ma il chilometro zero, lei non ha capito nulla, vuol dire che se deve comprare un salame, tra due salami sceglie quello che è prodotto più, diciamo, nel luogo più vicino, così si risparmia quanto impatto e emissioni. È proprio questo il punto. Se lo diciamo troppo alta voce, lo stesso ragionamento lo fa un canadese, un brasiliano, un russo, e dice: a parità di formaggio mi compro quello più vicino, non esportiamo più niente. Questo io ho capito benissimo che mi può anche andare bene l'idea che se ho tanta offerta come in Italia posso scegliere tra il prodotto più vicino, ma se dobbiamo esportare è meglio puntare, a mio avviso, sulla qualità, non sul chilometro zero. Comunque continuiamo con Eleonora Micheli, perché stavamo concludendo la borsa. Banco BPM più 3,5%, Unicredit più 3%, e anche Generali ha fatto un balzo nel finale più 2,1%, Banca Generali pure. Vai, sì, cioè, praticamente ormai nell'ultima settimana abbiamo visto che gli investitori scommettono soprattutto sulle banche, banche italiane, dopo che la situazione volge un po' al sereno, visto che comunque le banche venete sono state messe in sicurezza, anche Banca MPS dovrebbe essere salvata con la ripatrimonializzazione annunciata nei giorni scorsi, anche se deve essere ancora fatta, per 8,1 miliardi, quindi insomma sembra che la situazione volga al sereno, per questo si scommette soprattutto sul comparto creditizio italiano. Tra l'altro, come già preannunciavi tu, ci ha continuato anche la corsa di Banca Carige, alla fine ha registrato un progresso solamente dello 0,24%, ma nelle ultime sedute i titoli sono letteralmente volati, peraltro tra scambi in boom è passato di mano oltre il 20% del capitale dal lunedì a oggi. Questo perché ovviamente abbiamo visto che è stato annunciato un piano di rafforzamento da 700 milioni, 500 attraverso un aumento, certo, di capitale, il resto concessioni. Inoltre proprio oggi è stata annunciata la cessione di quasi 1 miliardo di sofferenze, e peraltro la cosa che è piaciuta al mercato è che sono state valutate oltre il 30% del proprio valore, quindi un livello nettamente superiore alle sofferenze valutate per il Monte dei Paschi, che ricordiamo invece alle quali è stato attribuito un valore pari solamente al 21%. E questo per quello che riguarda appunto anche la Cassa di Risparmio di Genova, che ci porta ai migliori e peggiori, devo dire i più deboli oggi del listino. Tra i titoli a maggiore capitalizzazione sono appunto ricordati -1,5% e A2A -1,40%, Prismian -1,1%, Mediaset -1%. Nonostante tra l'altro Silvio Berlusconi abbia parlato di un miglioramento della raccolta pubblicitaria e nuove acquisizioni del gruppo. Comunque Tenaris -0,80%, come Campari lo 0,70%, Europea ed Eterna. Migliori e peggiori in assoluto, dicevo, VM Capital più 25,30%, Invest più 20,40%, Innovatech più 15%. Il fronte opposto invece vede Net Insurance -5,50%, Health Italia -4,70%, Visibilia -4,30%. Grazie anche Eleonora Micheli. Noi restiamo, non ha mosso molto il mercato, ma ci mancherebbe, stiamo ragionando di un periodo un po' più in là, ma restiamo su uno dei temi di mercato, ossia il settore delle auto, perché sono arrivate in 24 ore due notizie, una con un orizzonte più a breve: dal 2019 la Volvo monterà anche un motore elettrico assieme al motore a combustione, e questo per portare in tutti i nuovi modelli, per arrivare poi a sostituire completamente il motore a combustione. Nel frattempo, tra l'altro pochi giorni fa Elon Musk ha annunciato che il Model 3, ossia la prima vettura per il mercato di massa della casa d'auto elettriche, sarà pronta per il suo lancio a fine luglio. Ma l'altra notizia riguarda la Francia, ossia la Francia dove il governo francese vuole mettere fine alla vendita di auto a benzina e diesel entro il 2040, lo ha annunciato il ministro dell'ambiente Nicolas Hulot presentando il suo piano sul clima. Luca Pellegrini, direttore di Quattro Ruote, la Bibbia, diciamo, di chi si occupa del mondo dell'auto. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, direttore, senti, è chiaro che mettere assieme la decisione della Francia da qua al 2040 con la Volvo da qua al 2019 è un po' mettere assieme, però sullo sfondo mi sembra che, non so se sia per via di Tesla, non so se sia per via del Model 3, non so, ma che ci sia una specie di accelerazione sul fronte sostituiamo la combustione. Quello francese chiaramente è un obiettivo molto ambizioso e quant'altro, quello della Volvo mi sembra invece un progetto già molto più operativo. Sì, certamente sono due progetti che hanno dei orizzonti temporali completamente diversi, però in fin dei conti tutto quanto va riportato all'esplosione del Dieselgate. Il Dieselgate è stata la scintilla che ha accelerato un processo di transizione che fino a quel momento esisteva ma era molto statico. Ecco, l'esplosione di questo scandalo in realtà ha avuto anche dei benefici, e quindi queste qui sono le inevitabili conseguenze del Dieselgate, ovvero la prima conseguenza, il primo esito è la morte del motore diesel. Quindi, e questo a sua volta è la conseguenza di norme sempre più severe. Allora, siccome adeguare i motori a gasolio a queste norme sta diventando sempre più costoso, i produttori di automobili si stanno spostando, ed ecco spiegata la intenzione, la dichiarazione di Volvo di ieri di dire: noi avremo soltanto in un prossimo futuro macchine ibride o totalmente elettriche. La decisione francese va al di là, però stiamo parlando appunto, come diciamo prima, di un orizzonte temporale più in là, quindi nel 2040. Allora, bisogna ricordare che Nicolas Hulot è sempre stato un estremista dell'ambiente, cioè ricordiamo che prima di diventare ministro lui aveva una fondazione che aveva già lanciato una campagna nazionale contro la vendita dei diesel, quindi molto probabilmente lui è arrivato finalmente alla titolarità di un dicastero, si è fottuto finalmente divertire. Adesso chiaramente stiamo un po' semplificando, perché in realtà dentro ci sono tante altre cose che contribuiscono a questa scelta, però è una scelta importante. Ora, Hulot dice, non spiega esattamente come avverrà questa transizione, questa rivoluzione, anche perché dobbiamo ricordarci che l'automotive è un'industria globale, le cui scelte a carattere strategico non vengono prese dalle case automobilistiche in funzione delle singole realtà regionali, ma vengono funzione, quindi insomma non è facilissimo portare a termine. Sicuramente questo porterà a una transizione molto molto forte, però lo stesso Hulot ha detto che questa transizione verrà spinta introducendo quello che lui ha chiamato un premio di transizione, ovvero fondamentalmente introducendo degli incentivi per le automobili a benzina pre-97 e diesel pre-2001. Quindi insomma è un piano che ha una serie di step che verosimilmente porteranno a una forte ibridizzazione, che è quello che dicevamo prima a proposito di Volvo, per poi arrivare invece a una elettrificazione diffusa. Ricordiamoci però che elettrificazione diffusa significa avere anche, che si presuppone anche un piano energetico adeguato. Sì, no, appunto, lì volevo arrivare, perché qualcuno mi sta già scrivendo: allora crollerà il prezzo del petrolio. Attenzione, dipende come la produci questa energia elettrica. Perché, esatto, insomma, noi la produciamo ancora in parte col carbone, in grande parte con il gas, parte un terzo, certo, e parte con risorse rinnovabili. Dipende, chiaro che sul fronte delle emissioni è diverso, ed è immaginabile che comunque il prezzo del petrolio non vada a crescere anche su questo motivo. Però volevo capire una cosa, Gianluca, tu ricordavi l'impatto in questo caso virtuoso del Dieselgate negli Stati Uniti e poi anche quello che è successo in Europa. Sì. Quanto pesa invece la concorrenza di Tesla e di tutto il mondo che ruota attorno a un'idea nuova, diversa di auto? La Tesla ha aperto una strada che probabilmente già esisteva, ma che nessuno aveva il coraggio di prendere. Ecco, Elon Musk ha dimostrato che in realtà si possono fare delle automobili elettriche di alte prestazioni, probabilmente superiori addirittura a quelle dei motori a benzina, paragonabili, con delle autonomie assolutamente di buon livello. E io quello che ho sempre detto però è che il vero piano, il master plan di Elon Musk si sta vedendo in questo momento, cioè lui ha utilizzato le automobili come una sorta di grimaldello per sdoganare la tecnologia elettrica, ma in realtà lui ha capito che a produrre macchine è difficile fare soldi, è difficile fare utili, si guadagna molto di più a produrre energia. È lì che nasce la decisione di aprire la Gigafactory, perché lui scommette sulla tecnologia delle batterie a cui tutti quanti dovranno attingere nel momento in cui ci sarà questa elettrificazione diffusa di cui parlavamo prima. Così battuta, secondo te arriverà prima la macchina che si guida da sola, che mi terrorizza da morire, ma comunque è una cosa personale, o il passaggio quantomeno all'ibrido su tutti i nuovi modelli? Arriverà arriverà prima sicuramente il passaggio al liquido, anche perché il liquido è una tecnologia che già conosciamo, cioè è una tecnologia già molto forte. Ma, però ribadisco, non bisogna aver paura dell'auto a guida autonoma. No, no, ma è un rifiuto di carattere psicologico, ma noi quando saremo in aereo, saremo in treno, non ci preoccupiamo che il treno arrivi dove ne abbiamo parlato seriamente, ne abbiamo parlato una volta, lì c'è un problema a mio avviso enorme di carattere legale. Sì, c'è un enorme di carattere legale, perché l'assicurazione assicura me o assicura l'auto, nel senso, se io faccio un incidente do la colpa al sistema che non ha funzionato, al software che non ha funzionato, o comunque la responsabilità individuale di chi è in quel momento fisicamente sull'auto. Però non voglio riaprire il tema, mi sembrava molto interessante. L'ultima domanda che mi viene suggerita in realtà dagli ascoltatori: oltre a Tesla, di cui tutti stiamo parlando, quali sono le case automobilistiche, Volvo l'ho appena annunciato, più all'avanguardia o che stanno cercando di recuperare il terreno perso? Beh, sicuramente le tedesche, BMW, Daimler, gruppo Volkswagen, un po' diciamo obbligato da quello che ha passato negli ultimi due anni. I giapponesi, Toyota fortissima sull'ibrido, di fatto ha praticamente il monopolio di questo mercato, però ha detto di voler portare anche sull'idrogeno. Ecco, bisogna capire a questo punto se ci sarà una demarcazione di carattere tecnologico fra le aziende che possono sostenere gli investimenti per assecondare questo futuro e quelli che invece non potranno. Ma l'idrogeno mi sembra che però proprio con Tesla sia passato un pochino in secondo piano, no? In realtà l'idrogeno aveva avuto un grande ritorno di fiamma qualche anno fa, poi improvvisamente si è reso conto dei costi, adesso sta ritornando nuovamente, e difatti l'annuncio di Toyota ha colto un po' tutti quanti in contropiede, perché tutti pensavano che l'idrogeno ormai fosse una tecnologia futuribile ma superata, ma invece ha detto che si può fare. Grazie al direttore di Quattro Ruote Gianluca Pellegrini. Andiamo sul traffico, appunto, e poi l'ultimo aspetto, il vertice informale di Tallinn, che cosa è uscito di concreto e quindi dal nostro punto di vista di economico da Tallinn, potremmo anche dire che è un blocco fantasma, è uscito molto poco, ma comunque l'approfondimento lo facciamo lo stesso. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Come voi sapete, noi abbiamo mandato una lettera alla sede formale che deve discutere di questo, che è Frontex. In quella sede discuteremo la prossima settimana. È evidente che su questo punto ci sono posizioni contrastanti. L'Italia ha un suo punto di vista, altri paesi hanno un loro punto di vista. Come giusto discuteremo? Discuteremo legittimamente, se mi è consentito, anche con la necessaria fermezza. Così appunto il ministro Minniti dopo il vertice informale di Tallinn. Su questo abbiamo anche la voce del commissario europeo Avramopoulos. Ha detto che l'obiettivo di Triton è chiaro, ma per quello che è attualmente, però occorre dare più lavoro, lavorare di più nell'Unione Europea per stare più vicino ai nordafricani, ai paesi nordafricani, e condividere il peso dello sforzo, assicurandosi che l'Italia non sia lasciata sola. Io non ce la faccio proprio a leggere sta retorica. Vabbè, comunque sentiamo Avramopoulos. No, non cambieremo il nostro mandato. Abbiamo una missione molto chiara e definita, che è Poseidon. Dobbiamo semmai fare di più per migliorare l'attuazione di quanto concordato. Abbiamo fatto finora un grande lavoro con Triton e Poseidon. Marco Ludovico del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, se possiamo. Ma forse sono io, forse c'è troppo caldo oggi a Milano, forse stiamo affrontando e sentendo queste frasi da troppo tempo perché io riesco a trovare una notizia, e forse magari mi è venuto un po' di allergia per la retorica e per la pacca sulle spalle, perché Minniti ieri in tutti i modi ha fatto notare la discrepanza tra le briciole date all'Italia: 35 milioni di euro oltre i 91 già stanziati, 46 milioni di euro alla Libia per migliorare le capacità operative della Guardia Costiera, e poi 200 milioni di euro in tutto dovrebbero andare all'Africa all'interno del piano da 2 miliardi e 600 milioni. Abbiamo fatto notare in tutti i modi che quando c'era l'emergenza siriana che premeva contro Croazia, Slovenia, Austria e Germania, oltre che Ungheria, e Repubblica Ceca, si sono trovati subito 3 miliardi per la Turchia e altri 3 miliardi poi promessi sempre alla Turchia. È vero che la Turchia è un paese diverso, ma insomma le proporzioni sono ingiustificabili. Che cosa è emerso da questo vertice oggi? Ma sicuramente sono vere le briciole, sicuramente è vera la pacca sulle spalle. Non vorrei, tanto per essere brutale, che arrivi anche la fregatura. Eccoci. Perché? Perché due no ci sono stati oggi, ma erano scontati. Il no alla revisione delle missioni europee come Triton, che noi chiedevamo per fare in modo che le navi dei singoli stati che partecipano a queste missioni europee si assumessero le loro responsabilità e quindi nel momento in cui svolgessero un soccorso potessero portare i migranti anche nei loro rispettivi stati. Questa è la carta, come abbiamo scritto oggi sul Sole 24 Ore, con Triton, che proveremo a giocarci a Frontex, alla riunione di Frontex a Varsavia all'11, ma sarà un tentativo, dubito fortemente che ci saranno esiti positivi per noi. Negativo naturalmente anche l'ipotesi di un attracco diretto, si erano già espresse Germania e Francia in questo senso, ci danno l'ok al codice di condotta per l'ONG. Perché ho parlato di fregatura? Perché intanto non è affatto detto che le ONG corrono entusiaste tutte quante insieme a firmare questo protocollo. In secondo luogo, tutti i meccanismi di applicazione sono molto delicati, resta comunque un obbligo internazionale di soccorso che supera qualunque altra norma, e il rischio è di continuare a avere davvero tutto sulle nostre spalle, quindi la solidarietà è espressa a chiacchiere, come dicevi tu chiaramente. L'obiettivo in realtà di Minniti è trovare una qualunque forma di alleggerimento della pressione migratoria, quindi tutti i tentativi sono legittimi, però adesso ancora non si vede niente. No, io devo dire che, visto che spesso ricordo quanto mi piace un ministro come Carlo Calenda, devo dire che anche Minniti in questo caso si sta muovendo molto bene, adesso uno può pensare, però non è che la colpa sia di Minniti. Ma certo. Il problema è forse il governo, ma lì sappiamo pure anche la debolezza intrinseca, il governo Gentiloni non ha neanche la forza per andare ulteriormente in Europa, ma sicuramente bisognerà prendere da un altro verso, perché Minniti sta portando avanti delle proposte molto concrete. Io qua dei porti la capisco veramente poco, perché non capisco perché e come mai arriviamo all'assurdo per cui la settimana scorsa una nave battente bandiera maltese ha scaricato 440 profughi da noi, non è arrivato uno a Malta dall'inizio dell'anno. Ditemi che Malta è troppo distante, pure lì adesso va ben tutto. Ma e quindi lì c'è uno schiaffo totale, non si capisce perché, se una nave non possa arrivare in porti francesi o in porti spagnoli, nulla a che fare con questo. Sui soldi nemmeno mi sembra che si sia mosso qualcosa. No, sui soldi si è mosso molto poco. Volevo dirti che tra l'altro su Malta, quello sarà un altro fronte su cui dobbiamo spingere, perché Malta sono anni che guarda tutto quanto lo spettacolo senza muovere paglia, e a questo punto, essendo magari nel consesso di tutti i 28 uno dei paesi un po' meno forte, quindi tra poco sta anche lasciando la presidenza, è possibile che si possa riuscire a convincere questo paese finalmente a esercitare il suo soccorso. Io penso che poi ci possa essere una trattativa un po' più generale che riguarda non solo i costi dell'immigrazione per l'Italia, ma anche temi di più ampia portata politica nel confronto europeo, che forse possono portare l'Italia a continuare a essere abbastanza cedevole su questo fronte, perché può avere atteggiamenti un po' più comprensivi su altri, intendo il bilancio per essere chiaro. Sì, adesso io ti ringrazio che dobbiamo chiudere, basta che poi non si faccia confusione, perché uno dei problemi che evidenziava la collega Adriana Ceretelli è che se tu ogni volta vai in Europa e devi chiedere lo 0,3-0,4 sul deficit, poi un'altra volta il problema delle banche, non riesci mai ad andare con una posizione unica e rischi di poi trattare o di contrattare un po' di flessibilità in cambio di non avere una posizione più forte sui migranti, per cui speriamo che non venga barattato questo, diciamo così. Grazie intanto a Marco Ludovico, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, torna anche la poco invidiabile classifica del programma sugli sprechi di denaro pubblico. A domani. Radio 24. Libera la voglia di fare.